feconda, voglio donar la vita. Sotto una sabbia legge va quest'orgono a mille genti e gregge e case campi e ville. La santa poesia è l'ultimo bisogno dell'esistenza mia, dell'esistenza mia. Voglio che questo